Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. È quasi finita questa serata, questo lungo sabato sera al convento di Ronato, sabato 23 giugno del 2018. E solitamente, qui sono Master Nick ovviamente, sempre qui dalla Ristorante Convento. Dicevo che solitamente questo è uno spazio molto libero, molto cordiale, ma anche molto sincero, in cui cerchiamo ecco di chiacchierare nel modo più vero e reale possibile. In questi minuti devo un po' recitare una parte, perché mi trovo di fronte a un ufficiale quasi, insomma a un personaggio bello tosto, e quindi per evitare che venga a scartabellare nelle mie faccende private cercherò di essere il più neutro e il più elegante e il più gentile e ruffiano possibile. Non ti preoccupare, non veniamo a scartabellare se non ci chiami tu. Ah no? È solo su richiesta? È solo su richiesta, ah. E a pagamento. E perché dovrei richiedere di farmi del male? A volte, cioè, che senso sadico c'è nella cosa? Beh, no. A volte sono molto sadici e richiedono un... Ma non c'è tipo le spie che chiedono dall'altro, no? Non si può fare quello. Beh, ci sono alcuni che chiedono che venga fatto. Sì, però non si può. No, si può. Poi la società comunque è avvertita. Lo deve chiedere lei. Ah. Non è il terzo che lo chiede. E che, scusa, e come mai mi cioè chiedo di fare sta cosa? Che cosa mi porta? Vabbè, insomma, porta una sicurezza nei confronti dei shareholders. Nei confronti dei soci, scusami. Ok, ti ringrazio. Ah, nei confronti dei soci, ok, quindi è una sorta di biglietto da visita da presentare, esatto, nel momento in cui. Esatto, praticamente. Ok, per futuri investimenti, immagino. Anche. Cioè, nel senso, per dire, oh, guardate che siamo sani. Va tutto bene, potete, esatto, quindi. Tirate fuori, o dall'altra parte per anche, come dicevi tu, tutelare e rassicurare gli attuali soci. Ok, detto questo, parliamo anche di cose interessanti, perché dopo aver... Non è vero, adesso spiegheremo il tutto. La casalinga... La casalinga... Golosa, certo, anche potrebbe essere, lo scopriremo presto. Perché siamo già in compagnia da qualche minuto, però ancora non l'abbiamo detto ed è molto importante. Siamo in compagnia di... Paola, benvenuta, da dove vieni? Monteforte d'Alpone. Ok, benissimo, e so che ti devi sposare, stai festeggiando il tuo addio al nubilato, quindi. Sto festeggiando il mio addio al nubilato, esatto. Chi è il tuo futuro marito e quando il succederà il lieto evento? È Andrea, e succederà il 28 luglio se si presenta. Se si presenta. Mi presento io, no? Beh, certo, è a scelta, e comunque se non si presenta la vita assegnata, perché... Vabbè, se non si presenta, intanto andiamo a festeggiare, dopo vado a ucciderlo, naturalmente. Esatto, o comunque a controllargli tipo qualsiasi cosa della sua vita passata, presente e futura. Beh, mandandosi cari. Passato. Ma è nel passato invece che si scovano delle cose interessanti, mandando appunto sicari. Noi abbiamo dei passati, siamo vecchietti ormai. Beh, ma insomma, tu, dai. Beh, però tu puoi permetterti, per il tuo ruolo e per il lavoro che fai, di indagare. Certo. La cosa interessante della nostra Paola, lo dirà lei, il modo in cui si è definita all'ingresso, se avrà voglia di farlo, ma però la cosa interessante è un po' questo, permettimi di dire, contrasto un po' distonico tra la tua personalità, un po', non dico burbera, però tutta una donna tutta d'un pezzo. Sì, autoritaria, non tanto autoritaria, proprio una donna che sta al fatto suo, sicura di sé, e comunque questo abbigliamento così un po' freak, un po' sì, casalinga, ma anche un po' casalinga sexy, mi ricorda un po' tanti mondi. Ci descrivi intanto come sei vestita e poi anche il perché, se lo sai. Dunque, allora ho un vestitino nero con un grembiulino bianco e un collarino e non so cosa, dei bracciali, un po' da cameriera sexy. Esatto. Con delle calze a reti e delle bellissime sabot color rosa shocking con delle borchie. Che hanno conquistato, esatto, che hanno conquistato ogni tipo di essere umano maschile presente in pista, esatto, e non in questa serata. Sicuramente. Infatti dovete sapere che la distanza media di un uomo rispetto a Paola stasera era almeno tra i 3 e i 4 metri. Cioè non c'è mai stato nessuno che si è avvinghiato a lei, perché c'era molto interesse dal punto di vista fisico e caratteriale. Poi guardavano in basso, vedevano le scarpe e si allontanavano di passo a passo. Naturalmente dobbiamo ringraziare le mie amiche che naturalmente hanno scelto questo outfit. Eh sì, è una sorta di... è presente la famosa storia del bastone della carota, no? Con i cavalli. Cioè arrivano vicini e poi sanno che comunque si ritrarranno, esatto, e si allontaneranno vedendo le scarpe. Io continuo a immaginarmi questa scena tipo Passo del gambero, che uno ogni 5 secondi fa un passo cercando di non essere beccato e piano piano se ne va. poi la scelta del perché da parte loro non lo so, ma il mio futuro marito sarà molto contento visto che mi chiede ogni giorno di essere la sua colf, chiamiamola. Ma come mai? Come mai? Perché è pigro, non ha voglia di fare nulla e quindi ti chiede di, esatto, come dire, di casa, sì, esatto, di supplire, sì, di supplire alle tue mancanze, esatto. Ma mentre tu, per un po' professionalità e probabilmente anche ormai inclinazione personale e caratteriale, non vuoi sottostare alle regole, immagino. Certo che no. Non ho mai sottostato, a meno che la casa non fosse veramente in situazione indecente, tipo. Quindi da lì bisogna riparare, esatto. Lì bisogna riparare. E ormai ne abbiamo parlato all'inizio, e se vuoi raccontarci, ecco, adesso cosa fai invece nella vita, cercando di renderlo il più semplice possibile. Io sono praticamente una rompiscatole che va nelle aziende a verificare i bilanci di esercizio, sono un revisore contabile. Ok, e che hai fatto studi inerenti o è una carriera che è arrivata piano piano? No, ho fatto studi inerenti, volevo fare questo lavoro. E... ah, esattamente questo lavoro, e come mai? Perché si vede che sono rompiscatole di mio. Vabbè, ma qualcosa ti avrà affascinato. Volevo esprimerlo anche nei... Beh, però qualcosa ti avrà affascinato del ruolo, del lavoro. Il ruolo è il controllo. Dico, ti ha affascinato quello? Cioè la possibilità di controllare, esatto, di far tornare le cose. Di far tornare le cose in ordine. Da quanto tempo fai questo lavoro? Da 8 anni. E quindi ormai praticamente è una tua seconda pelle. Esatto. No, nel senso, una tua seconda pelle. E in uno studio, cioè cosa è? È uno studio, è un'agenzia, è un'azienda? È una società. Una delle big four, chiamiamola, per chi è del mestiere. Ah, va bene, va bene. E dove lavori? A Verona. A Verona. Mi distanzio a Trentino Alto Adige. Pensa che io credevo fosse una cosa più milanese come tipologia di lavoro. A Verona. Ah, a Verona, benissimo. Siamo sparsi in giro. E quanti siete all'interno dell'ufficio, comunque la società? L'ufficio una ventina, all'interno della società siamo sui 4-5 mila più o meno. Cavolo, perché è una multinazionale che, okay, che poi ha Bari, dislocate in varie zone. Quello che è comunque curioso, solitamente un altro detto, visto che ne abbiamo detti alcuni in questi minuti, è che gli opposti si attraggono, mentre nel tuo caso non è così perché ti sei contornata di altri rompiscatole. Esattamente. O meglio, di altre rompiscatole. Tutte femmine, altre rompiscatole, perché tutte colleghe o ex colleghe, esatto. E quindi diciamo che anche le tue amicizie dipendono dal tuo lavoro, comunque sono influenzate dal tuo lavoro. Quindi chi è qui con te stasera? Con me stasera sono qua Silvia, Francesca e Alessandra. Le altre sono già andate perché vivono una vita molto grama e quindi, aia, no? Ma quante eravate in totale? Non lo so. Allora, 11. Eravamo 11. Prima eravamo un po' di più, 15, ecco. Sì, diciamo che è stata una sorta, esatto, di selezione naturale in cui alcuni... Alla fine rimaniamo sempre noi. E qui diciamo, i più deboli si sono arresi e hanno dovuto sottostare alla legge della giungla, esatto, che il più forte va avanti, esatto, il più forte continua e va avanti. Ma veramente al di là di loro, di cui mi hai già detto, tutte ex colleghe o colleghe, no? No. Ah, ok. Ex compagni di scuola, ex amiche dall'infanzia, di tutto. Beh, insomma, però le più temprate sono le cos'è? Revisori. I revisori, perché non c'è il femminile, no? Revisore, ma è un po' esatto, è un po' durino da digerire. Ok, quindi i revisori sono comunque intanto i più temprati, uno alla secondo quelli che hanno più voglia di divertirsi, a quanto sembra. Perché lavoriamo 20 ore al giorno. Esatto, davvero? È così dura? È così lunga la vostra giornata? Ah, però non immaginavo. E benissimo. Ah, perfetto, ha detto che è interessato a scoprire qualcosa di più di te. No, poi è interessato al fatto che gli pulisca 180 metri quadri di casa. Dici, come fai a sapere che ha 180 metri? Ah sì? Ma pensi che sia vero? Esatto, tutto può essere, ti lascerò nel dubbio. Scoprire, dai. Sì, esatto, quello che è certo è che ti do lo spazio per dire qualcosa, se ti va, per salutare qualcuno, non lo so, se hai voglia di... Ah, saluto tutte le mie amiche che sono qui. Perché lei suggerisce? Vedi? Perché lei suggerisce. Vedi. Era interessata. Esatto. Lei attualmente è una mia sottoposta, ma chissà cosa succederà nel futuro. Chi lo sa? E niente, quindi saluto tutte quelle che sono state qui stasera, che ringrazio loro che hanno organizzato il tutto e che sono state le più accanite in questa cosa. Ci vuole, ci vuole. E naturalmente saluto il mio futuro marito, che in questo momento sarà a letto, ma che il prossimo weekend festeggerà il suo addio al celibato. Oh, bene, bene, bene. Sempre a letto, cioè sempre sul divano e a letto, quello non cambia. Letto a Milano Marittima. Ah, ok, perfetto, perfetto. Conosciuto, lo saprà prestissimo. E cosa vuol dire? Milano Marittima, chiaramente conosciuta per la sedentarietà, certo, della vita, certo. E per la noia mortale nelle cose da fare. Esatto. No, dicevo, saluto il mio marito promettendogli che farò la brava. Ah, pensavo che per le prossime due ore. No, nel senso che pensavo che volesse sportarmi il microfono per dire promettendogli che diventerò una brava donna di casa, invece no, non ti arrendi. Una brava donna di casa, ma perché riguarda la mia casa, la sua si arrangia fino a che non diventerà la nostra. Quindi. Ah, perché ancora vivete in zone separate. Sì, viviamo ancora in zone separate. Ok, ok, quindi, però probabilmente lui sta già cercando di... Esatto, sta cercando di temprarti, ecco, anche da quel punto di vista. Va bene, allora ti auguriamo una buona navigazione nei tuoi numeri, nei tuoi Grazie conti mille. E nelle tue... Ma metti anche tipo gli occhialini sul naso, no? Sì? Sì? È solo che stasera... Vabbè, ok. Però io ti immagino proprio, sai, quelli con gli occhialini sì, sul naso. Quelle sì. Quando mi vedi, tagliere... Che rispondono solo tipo, sì, dica, mi dica, certo, dica. Sì, certo. Molto... Però vado sfilata, quindi a volte mi danno una roba senza fare proprio. Sì, ognuno usa le armi che ha e cerca di portare. No, beh, nel senso, cerca sempre di portare il risultato a casa per le migliori qualità che può esprimere. E quindi è giusto che tu ne approfitti. Eh sì, è giusto che tu ne approfitti e sono contento che tu lo dica e lo porti in giro con cotanta fierezza. È giusto che sia così. Va bene, allora ragazzi, buona serata, buon divertimento. C'è ancora qualche minuto per divertirsi e ballare qui, quindi godetevelo fino in fondo e salutateci quando potete e vorrete le altre che si sono arrese, certo, facendole vergognare proprio per questa cosa del fatto che si sono arrese troppo presto. Grazie mille ancora, ciao! Ciao! Grazie!